ci sto da sola, no, starò sola un giorno, se vuoi due al massimo. Sola no, io non ci sto, non ci sto da sola, no. Che non ci sto da sola, va bene? Sola!